Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Bentrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi per la serie consigli per gli acquisti, ma non solo, è con noi il campione olimpico Alberto Cova. Ciao Alberto. Ciao Silvio, ciao Ivana, buongiorno a tutti. Come stai? Benissimo, grazie. Allora, partiamo diciamo dalla fine. Sappiamo che in questi giorni correrai una gara virtuale. Gli anni passano, possiamo dire, ma la voglia di correre è rimasta. Beh, a Giorgio Rondelli non si può dire di no. Lui si è inventato questa 5K a distanza e mi ha chiesto non solo di fare un promo per far sì che tutti si iscrivano a questa gara, ma anche di partecipare, quindi mi sono iscritto e adesso vediamo. Comunque io lo farò in modo tranquillo con mia moglie Laura, quindi seguirò più il suo ritmo che il mio. Anche tua moglie corre? L'hai coinvolta? Da 4 anni a questa parte, con una sua richiesta particolare, lei non aveva mai corso in vita sua, poi è uscita con un'invenzione di voler correre la maratona. La prima l'abbiamo fatta nel 2016 a Chicago e poi adesso ne abbiamo già fatte altre 3, con l'idea di chiudere nel 2021 il famoso percorso delle Majors, quindi ci mancano Berlino e New York, che faremo alla fine dell'anno prossimo. Avremmo dovuto farle quest'anno, ma purtroppo, come sapete, sono state annullate e rinviate. E quindi, insomma, punti al medaglione. Punto al medaglione, è la medaglia che mi manca. Allora, parlavi di Giorgio Rondelli. Giorgio Rondelli è stato il tuo allenatore per tutta, insomma, diciamo, la tua carriera di atleta professionista, artefice, insieme a te, possiamo dire, dell'oro europeo ad Atene 82 sui 10.000 metri, oro mondiale a Helsinki 83 e dell'oro olimpico a Los Angeles 84. Questo è il mio, diciamo, secondo triplete preferito. Giorgio è stato il mio compagno d'avventura dal 79 in poi, dopo che avevo fatto tutta la parte giovanile con Sergio Colombo e con l'Atletica Mariano Comense. Poi io ho fatto il salto di qualità, sono andato in Pro Patria, società che tutti conoscono e che già con Giorgio c'era un gruppo di atleti già evoluti. Mi sono inserito in questo gruppo, siamo cresciuti tutti insieme e abbiamo ottenuto tutti i nostri migliori risultati che tutti sapete. Sì, il triplete è stato diciamo il momento magico della mia carriera. Vorrei aggiungere anche la Coppa Europa dell'85 a Mosca, dove abbiamo vinto sia i 5 che i 10.000. E poi, perché no, anche l'argento di Stoccarda agli europei quando persi la gara da Stefano May. Queste sono state tutte le mie medaglie, oltre a tantissime altre gare importanti, meeting, gare internazionali, che nell'arco di questi 11 anni hanno sottolineato così quello che è stato il mio percorso sportivo, insomma. Tu ti allenavi alla montagnetta di San Siro, vero? La montagnetta di San Siro è stata la mia seconda casa. Non l'ho mai messa sul 740 di allora, ma a 11 anni a correre su quei percorsi è stato fantastico ed è stato anche molto utile proprio a livello di costruzione, diciamo, del motore, della parte muscolare e di costruzione poi dei risultati ottenuti. Tra l'altro c'è un giro intitolato a te, perché si chiama Giro Cova, che noi facciamo tutti. Sì. Per i milanesi, diciamo, sono i 10 chilometri più impegnativi. Sì. Sì, 10 chilometri impegnativi e poi tutti quelli che sono definiti tapascioni, che a quei tempi seguivano gli allenamenti, alla fine della mia carriera poi hanno, con mio piacere, insomma, identificato quel percorso che facevo spesso come il percorso Cova. In effetti la montagnetta, quando io l'ho conosciuta, praticamente era brulla, non c'era nulla, erano solo macerie edili che venivano trasportate lì come scarti. C'erano le strade degli automezzi che salivano a scaricare queste macerie. Poi col passare del tempo l'amministrazione comunale ha cominciato a piantumare la montagnetta e oggi è un bellissimo bosco. Infatti, quindi io l'ho vista proprio crescere, nascere, diventare un ambiente per la corsa fantastico. Però questo Giro Cova non si trova da nessuna parte, anche online, così. Una volta ce lo siamo fatti spiegare da Danilo Goffi, ma la terza curva ci siamo persi. È vero. Devi fatela spiegare da Giorgio Rondelli. Infatti, bisogna andare lì. Perché lui sa esattamente come, vabbè, come lo so io, se vuoi te lo spiego, ma diventerà lunga poi la trasmissione. Ma se hai l'opportunità di parlare con Giorgio, dirà esattamente quali erano i sentieri che facevamo sulla montagnetta. Allora, andiamo al dunque. Abbiamo parlato all'inizio di consigli per gli acquisti, perché è in libreria ormai, insomma, da qualche mese il tuo libro, biografia soprattutto giustamente sportiva, ma non solo. Il titolo è Con la testa e con il cuore, edito da Sperlin e Kupfer, e scritto con il nostro, insomma, nostro di Radio 24, Dario Ricci. Com'è stato ripercorrere la propria vita? Beh, è stato abbastanza semplice. Poi Dario è una persona che assimila molto, che fa le domande giuste, è stato ad ascoltare tutti i miei racconti, e poi lui è stato molto bravo col suo tratto di scrittura a descrivere in modo anche semplice quello che erano poi i miei pensieri. Quindi devo dire che non è stato assolutamente difficile. Io Dario non lo conoscevo, ci siamo conosciuti, ci siamo confrontati, mi ha fatto leggere un paio di suoi libri, in particolare quello sul pugilato, dove lui è molto appassionato, e mi è piaciuto il suo modo di scrivere, e quindi abbiamo cominciato a lavorare. Io gli ho messo a disposizione una mia enciclopedia di articoli di giornale dei tempi, di quei 10 anni. Lui li ha fotografati, li ha letti, ci siamo confrontati, tant'è vero che nel libro poi vengono riportati anche alcuni passaggi dei giornalisti dei tempi su alcuni temi che abbiamo inserito nel libro. Il libro, con l'editore, con Sperling e Kupfer, abbiamo deciso di farlo uscire nel mese di marzo, prima delle Olimpiadi di Tokyo, e siamo incappati in quello che è stato l'evento di 2020, cioè la pandemia. È stata colpa del libro. No, però abbiamo deciso di uscire, abbiamo deciso di uscire lo stesso, anche perché il titolo, Con la testa e con il cuore, che sono un po' le caratteristiche mie che hanno sviluppato poi anche questi risultati, cioè lavorare sulle emozioni, vivere le emozioni dell'attività sportiva e del percorso che avevo costruito per arrivare a questi risultati, ma soprattutto utilizzando la testa, ci sembrava anche qualcosa di bello e di particolare, che fossero anche i due strumenti necessari per affrontare e uscire da questo particolare momento. Cioè ci vuole cuore, tanto cuore, che poi è stato messo soprattutto a disposizione da coloro che hanno lavorato negli ospedali, per tutti coloro che hanno preso il virus, che sono presentati con le diverse situazioni, anche le più gravi e le più dolorose, e soprattutto poi con la testa, che è quella che bisognerebbe utilizzare per venire fuori dai momenti di difficoltà e prendere delle decisioni anche magari difficili, però prenderle per uscire poi appunto da queste crisi. E quindi siamo usciti con il libro. E nel percorso, cioè nella tua vita, hai preso delle decisioni difficili? Nel libro ci sono raccontate tutte le mie decisioni difficili, quelle che hanno portato a ottimi risultati, anche le decisioni che poi invece sono state deludenti, perché io dico sempre che le decisioni bisogna assolutamente prenderle. Per uno sportivo che fa un'attività come la mia è assolutamente necessario prendere delle decisioni, e che quella decisione che prendi soprattutto durante una gara la conosci solo un metro dopo il traguardo. Lo sai solo dopo se è stata positiva o meno, però la decisione va presa, perché se non prendi la decisione c'è sempre qualcuno che la prende al posto tuo e vincono gli altri. Infatti. Allora, parlando di decisioni, vediamo qualche tappa del libro. Tu nel 77 ti sei diplomato in ragioneria, e da lì anche il tuo soprannome, anche perché poi in gara eri un po' un calcolatore. E a quel punto però, insomma, i tuoi genitori erano già pronti a vederti con un bel lavoro in banca, invece tu hai scelto altro poi. E quella è stata la decisione fondamentale. Io non so, ero preso da questa passione, da questo piacere della corsa, e soprattutto in quel periodo, diciamo tra il 77 e il 79, Giorgio Rondelli che insisteva, vieni in Propatria, e la cosa mi piaceva moltissimo. Io ho deciso di fare un percorso completamente diverso da quello che avevano probabilmente pensato i miei genitori, soprattutto devo dire mia madre, da buona sarta, aveva già preparato il vestito per andare in banca a lavorare. Allora voi sapete che agli uomini era obbligatorio la giacca e la cravatta, e invece io ho detto no, voglio fare l'atleta, e quindi faccio una scelta diversa. Devo dire che non c'è stata diciamo c'è un grande contrasto, è che loro hanno capito che io volevo fare qualcosa di particolare e di diverso da quello che loro si aspettavano, poi alla fine me l'hanno lasciato fare. Per fare questo però ho dovuto fare una scelta anche abbastanza particolare, cioè quella di seguire il percorso del presidente Mastropasqua che mi aveva proposto per andare in Propagia, cioè lavorare nel suo ufficio per 4 ore al giorno, quindi un part time da ragioniere, e poi l'altra metà della giornata fare l'atleta andando a campo con Giorgio, mettendo insieme i rimborsi della società e lo stipendio del ragioniere. In questo part time ho accontentato anche economicamente non solo me stesso ma anche i miei genitori, e quella è stata il momento in cui ho compreso che tutto sommato non mi avrebbe regalato niente a nessuno e che qualcosa di mio avrei dovuto metterci. E quindi mi sono fatto questi 4 anni da ragioniere part time e andavo su e giù dalla Brianza a Milano con il trenino, e durante la giornata facevo i miei 2 allenamenti, uno la mattina quando avevo la giornata libera, quello più importante, quello più lungo, e la sera quando uscivo dall'ufficio e ritornavo alla montagnetta di San Siro facevo il secondo allenamento e poi rientravo a casa la sera tardi. E il giorno dopo si ricominciava, insomma. Ricordo che insomma avevi fatto una promessa ai tuoi genitori, avevi detto più o meno in 5 anni riuscirò a vincere qualcosa in qualche modo, no? No, perché alla domanda di mia madre quanto si guadagna a fare l'atleta invece che andare in banca, dove in banca allora si prendevano 16 mensilità posto sicuro per tutta la vita, lei giustamente ha detto ma da quest'altra parte quanto si guadagna? Io ho detto guarda, io in primi 4-5 anni poco o nulla, però poi se vinco delle gare importanti posso anche guadagnare più di quanto si guadagna in banca. Lì è nata la discussione, perché la mia mamma, da buona donna che gestiva la famiglia, ha detto ma io mica posso aspettare 4-5 anni che tu forse diventi un campione e guadagni di più che in banca, quindi vedi di andare a lavorare. Però nell'82 poi tu vinsi insomma l'europeo, per cui lì si inizia a fare sul serio. Io lì ho vinto gli europei nel settembre dell'82, si è cominciato a fare sul serio, e visto il risultato degli europei durante l'inverno nella preparazione ai mondiali abbiamo cominciato a ragionare anche con Giorgio che forse il tempo che dovevo dedicare agli allenamenti e all'atletica doveva essere la prima cosa della mia vita, e quindi poi nel fine gennaio dell'83 ho smesso di andare in ufficio e mi sono dedicato completamente a tempo pieno. Tra l'altro ricordo in quello europeo cioè, interruppe addirittura il TG1, no? Nell'edizione serale, per dare la diretta degli ultimi 600 metri della telecronaca. Sì, così mi hanno detto. Sì, giustamente tu stai correndo. in effetti è stata una scelta anche della RAI opportuna, ed è stato anche almeno così raccontato, e poi io ho visto il filmato. È stata una bella emozione, una cosa soprattutto a pensarlo ad oggi, no? Pensare oggi l'atletica che interrompe un TG, insomma, in qualche modo. Intanto deve essere in contemporanea. Sì, no, quello è anche vero. Primo, e poi ci deve essere la medaglia. È la cosa più difficile. Infatti. Secondo me oggi per l'atletica la difficoltà più grossa è la medaglia, anche se la medaglia di oggi, al di là poi della contemporaneità con il TG o meno, porta sicuramente molto più successo rispetto alla medaglia di allora. Allora mediaticamente diciamo che è stato davvero un grande successo sia sulla televisione che sui giornali. Erano però gli unici 2 strumenti di comunicazione di allora. Oggi la medaglia è ampliata da tutto quello che è il mondo digitale, praticamente arrivi a tutto il mondo in tempo reale. Io ricordo benissimo la tua volata ai mondiali di Helsinki, e tra l'altro l'ho fatta vedere poco tempo fa a mio figlio perché voleva vedere, non so, i 10.000 metri eccetera, ed è sempre un'emozione, cioè la riguardi anche dopo tantissimi anni ed è veramente emozionante. Come l'hai vissuta, nel senso che hai capito, quando è che hai capito che potevi farcela? E quando sono uscito dalla curva, gli ultimi 80 metri, io ho capito che ci stava la medaglia d'oro, cosa che invece da quando è partito Schildauer, cioè a 450 metri dal traguardo, Lui ha fatto questo attacco a sorpresa, io non me l'aspettavo, è stato violento, quindi tu Ivana puoi comprendere, no? Che sì, muscolarmente pur reagendo però non volevo andare fuori giri e quindi non ho rischiato tutto nell'inseguimento a Schildau, e poi ci si sono messi di mezzo gli altri tre avversari, sì, Kunz, Vaigno e Shang, e quindi io mi sono trovato in quinta posizione, non perché ho scelto quella posizione ma perché gli altri me l'hanno imposta, e quindi andavo all'inseguimento con Schildau che era là davanti e se ne andava da solo. Io ho cominciato a pensare che probabilmente loro era perso, e però gli altri tre che avevo davanti in una volata avrei potuto magari salire sul podio con un bronzo, perché no, con un argento. Quando però poi all'uscita della curva io mi allargo per cominciare questa volata per salire sul podio, mi accorgo che Schildauer non è più così lontano. Lui è in difficoltà perché le gambe non gli rispondono più, è affaticato, non reagisce a, diciamo così, agli stimoli della volata, e io comincio questa rimonta, una rimonta che è data dal fatto che mentre gli altri non riuscivano più a cambiare e anzi rallentavano la loro azione, io mantenevo quella velocità che avevo avuto fino a quel momento. Quindi sembra che io vado il doppio della velocità di loro. Sì, infatti. Il mio mantenimento della velocità e questo loro rallentamento creano, diciamo, per chi sta davanti alla televisione, questa situazione. E quindi mi sono accorto che in quegli 80 metri io non solo potevo salire sul podio, ma potevo salire sul gradino più alto, e quindi ci ho provato. E ce l'hai fatta, e direi benissimo. Ce l'ho fatta, 18 centesimi, ma ce l'ho fatta. E poi l'anno dopo la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles, lì fu una gara un po' vinta quasi a tavolino, no? Perché Giorgio riguardava VHS una via l'altra degli avversari, se non ricordo male. Sì, quella è stata vinta veramente con la testa, con la partecipazione di Giorgio, perché Giorgio, che mi dava tutte le informazioni e studiava gli avversari e poi elaboravamo insieme delle eventuali soluzioni da mettere in campo, da utilizzare per la gara, avevamo avuto occasione di vedere al campionato finlandese Vaigno che faceva una scelta di questo tipo. Naturalmente là, senza avversari, fece una bella sgroppata, però noi ci siamo segnati questa cosa, sì, e ci siamo detti: pensa che se lui la fa a Los Angeles potrebbe anche ottenere il risultato che lui vuole. Allora cosa abbiamo fatto? Io sono andato in gara, in questa finale, con l'idea che dopo 5 chilometri, se ci fosse stata questa opportunità, di stare attento a Vaigno, che si sarebbe mosso. Io ero in terza posizione, appena dopo il quinto chilometro, stavo, vabbè, così gestendo la gara, cercando di capire cosa facevano gli avversari. Mi passa di fianco Vaigno, che comincia la sua galoppata. E io sono uscito dalla mia terza posizione, mi sono messo nella sua scia, ho cominciato a stringere i denti sulla sua maglietta, dico: da qui non mi stacco più finché non arriviamo e speriamo di arrivare sul traguardo. E lui ha cominciato a correre ad un ritmo forsennato. Se pensiamo, lo dico per chi segue anche tecnicamente diciamo il cronometro, dal sesto al nono chilometro abbiamo fatto 8 minuti, come se fosse stata una gara quasi secca su 3.000. Sì, è vero che la prima parte siamo andati lentissimi e quindi di energia ne avevamo spesa poco, ma lui fece questo attacco che io ero lì che lo seguivo e dentro di me dicevo: speriamo che cominci a rallentare, perché se va avanti così anch'io sto andando fuori giro, le gambe cominciano a farsi sentire, si sente la fatica. E quando siamo arrivati al nono chilometro, più o meno a 2 giri dalla fine, lui prende fiato e quindi io lì ho cominciato a capire che anche lui non aveva più così tanta energia da spendere. E quindi ho cominciato a tranquillizzarmi, sapendo sempre che comunque dovevo stare concentrato. Mi sono però più diciamo rivolto a quegli ultimi 150 metri, dove a quel punto sapevo che per le caratteristiche diverse anche fisiche mie di Vaigno, in una volata a due sicuramente non ci sarebbe stata storia. Però diciamo che solo in quel momento ho capito che potevo vincere l'Olimpiade. Se lui avesse tirato ancora probabilmente altri 800 metri a quel livello, sinceramente non so quale sarebbe stato il risultato finale. Io ormai ero quasi al limite delle mie energie. Però, insomma, la medaglia è arrivata. E poi alla fine comunque è venuta la medaglia. Per cui quello vale. Allora, diciamo che queste in breve sono le vittorie più importanti, ma il tuo libro dici anche che è dal fallimento che si vede di che pasta si è fatti, non dalle vittorie. Sì, assolutamente. Poi fallimento è una parola veramente pesante, sì, perché voglio dire, nello sport, se pensiamo a Stoccarda vincere l'argento, sicuramente, come descrivo nel libro, è stato un momento particolare della mia carriera, che forse non avrei voluto vivere in quel modo, però sempre comunque una medaglia d'argento, sì, e quindi direi solo una gara andata storta. Poi però gli anni successivi, e quindi gli anni, diciamo, cui poi c'è stata l'idea di chiudere l'attività, sono stati abbastanza difficili. Lo spiego bene nel libro, anche dando significato ai miei sentimenti, alle mie emozioni, anche in senso contrario a quelle positive, perché sicuramente in quegli anni ho vissuto alla ricerca di quello che avevo vissuto negli anni precedenti, e dove la testa continuava a dirmi che ero forte, e poi invece le gambe, per diversi motivi, che ci dicevano il contrario. E quindi è chiaro che l'atleta vorrebbe sempre riuscire ad andare fortissimo, però dopo 2 anni passati in modo difficile, senza riuscire a trovare risultati importanti, anche se in alcune gare sono andato anche discretamente bene, con tempi anche significativi, ma non c'era più quella continuità di risultati che avevo avuto negli anni d'oro. E quindi poi alla fine uno prende la decisione, perché c'è una cosa secondo me chiara per un atleta: che tu cominci un'attività, ma sai anche che un giorno da professionista dovrai smettere. Perché quei risultati, col passare del tempo, non saranno più possibili proprio a livello fisico. E quindi ti rendi conto. Ecco, io mi sono reso conto di questa cosa nel 90, esattamente il 6 giugno del 90, quando, andando alla ricerca del minimo per i campionati europei di spalato, stavo correndo un 10.000 a Bratislava, mi sono fermato dopo 5 km, ho capito che non c'erano più le possibilità di fare delle cose di un certo livello, e quindi sono tornato e ho detto: Giorgio, forse è meglio che attacchiamo le scarpe al chiodo. Spesso poi, quando smettono gli atleti, poi non fanno più quello sport. Cioè, tu hai smesso completamente anche di correre, oppure continuato così con qualche corsetta? No, io per 7 anni, diciamo dal 90 fino al 98, sì, quasi 8 anni, non ho mai più messo un paio di scarpe da corsa. Un po' perché non avevo voglia, un po' perché c'era un rifiuto anche, tra virgolette, di quella che è stata una vita intensa e sempre molto coinvolgente, ma comunque faticosa anche di testa, e quindi mi sono preso una pausa. Poi c'è un bellissimo capitolo nel libro, avevo, adesso non so se volete ve lo racconto, se no poi nessuno lo legge. Qualcosina, così non spoileriamo troppo. C'è tantissimo da leggere, per cui insomma. Infatti, pesavo 82 kg in quel periodo. La cosa, insomma, a me dava fastidio, però non facevo niente per rimediare. E quando un amico mi dice: ma tu in quelle condizioni, se metti le scarpe per correre, non riuscirai mai a correre una maratona in meno di 3 ore. Allora lì è come aver rimesso la spina nella presa, è stato corrente. Soprattutto a quella voglia di rivincita, o quella voglia di competizione che comunque ognuno di noi ha dentro, no? Quindi mi ha stimolato, e allora, visto che parlava di maratona, che poi era la distanza che io nella mia carriera sportiva non sono mai riuscito a correre per diversi motivi, ho detto: vabbè, se dobbiamo fare le cose, le facciamo bene, si va a New York a correre la maratona. Lui, questo mio amico Giuseppe, era un tapascione che correva la maratona in 3 ore e 31. Io non l'avevo mai corsa in vita mia, dico: io correrò almeno di 3 ore e tu dovrai correre in meno di 3 ore e 30. e siamo andati a New York. Ah. Io mi sono allenato per 5-6 mesi e mi sono impegnato di nuovo negli spazi della mia giornata, insomma mi sono preso il tempo per allenarmi, siamo andati a New York. Io ho corso in 2:59:56. Incredibile. Incredibile. Il ragioniere che eri, insomma. Sì. Che tra l'altro New York è anche difficile come maratona, bisogna dirlo. Assolutamente sì, ma l'ho vissuta talmente bene, guarda Ivana. Immagino. Veramente bene, che a un certo punto mi sono distratto, quasi non riuscivo ad andare sotto le 3 ore, ho dovuto fare tutti i 2 chilometri impegnati per poter andare al risultato. E Giuseppe fece 3:29, quindi siamo tornati a casa con il risultato e con la scommessa vinta da tutti e due. Sì, sì, sì, sì. Quindi è stato divertente anche per quello. Solo che da quell'esperienza poi, diciamo così, non mi sono, tra virgolette, più fermato, nel senso io lì ho rilanciato una sfida di nuovo ad aprile a Londra. Ci hai preso gusto. Poi ci ho preso gusto. Infatti avevo corso in 2:55 e 48. E poi dopo in occasioni varie, diciamo anche così con amici, con situazioni anche istituzionali e quant'altro, sono andato di nuovo 2 volte a New York a correre molto tranquillamente in 3:40, 3:45. E poi dopo, vabbè, io pur continuando a correre, come ho detto, 4 anni fa sono ritornato a correre la maratona con Laura, quindi... E adesso vabbè, continueremo in questa nostra avventura almeno fino all'anno prossimo, poi vedremo. Diciamo che la pancia è anche il motore di molti runner che ci seguono, alla fine, insomma, è stato in qualche modo. No, si inizia a correre magari per rimettersi un po' in forma, poi alla fine si scopre una passione che magari non si sospettava in qualche modo di avere. E tanta gente corre anche perché può mangiare poi di tutto anche. Questa è la cosa positiva. Tu sai, Ivana, comunque, che per dimagrire con la corsa devi correre parecchio. Non bastano i 20 minuti, mezz'oretta al giorno per dimagrire, bisogna correre almeno sopra i 40 minuti, se non l'ora di corsa. Allora puoi permetterti qualcosa di particolare in più a tavola. Però diventa poi, se diventa una bella passione, se diventa qualcosa, diciamo, per se stessi, per il benessere, e per qualcuno poi diventa anche magari lo scopo di fare qualche risultato personale su distanze più o meno lunghe, insomma. Sì, sì, sì. Poi è anche un modo per condividere una passione, per viaggiare anche, no? Per fare cose diverse. Sì, ma guarda che con Laura è partita questa cosa. Poi io sono sempre molto orientato agli obiettivi importanti, no? Quindi quando lei mi ha manifestato questa cosa, io non ho pensato a una maratona vicino a casa, perché così è comoda e tutto quanto. No, ho detto, vabbè, allora non gli ho offerto subito New York perché mi sembrava impegnativa. Dico, andiamo a Chicago, un bel percorso piatto, una bella città americana, facciamo un bel viaggio, New York l'abbiamo già vista, e siamo andati a Chicago. La cosa è che abbiamo trovato una giornata fantastica, bellissima, si è divertita tantissimo, e quando abbiamo finito la maratona ho detto, ma la prossima quando la facciamo? Tipico. Vabbè, la prossima la facciamo un pochino più vicino. Siamo andati a Londra, e poi forte del fatto che appunto c'era il percorso delle majors, dico, vabbè, se ti piace quella maratona c'è un bellissimo obiettivo, quello di fare le 6 maratone più belle al mondo. E quindi dopo Londra siamo andati a Boston, poi da Boston siamo andati a Tokyo, e quindi abbiamo messo anche insieme dei viaggi particolari, e adesso ci mancano Berlino e New York. Beh, dai, non male. Allora, in chiusura, parlavamo prima del mondiale dell'83, alla fine di quella, insomma, telecronaca, Paolo Rosi dice, insomma, ricorda il tuo tempo, 28:01:04, ma che ci importa del tempo, no? In questo anno di Covid, invece, il tempo è stato un po' il motore di tante manifestazioni che hanno portato gli atleti ad andare a caccia di nuovi record. E cosa pensi di questi tentativi, in particolare del record di Joshua Kipchoge sui 10.000 metri? Gli atleti, secondo me, quest'anno hanno quasi sono stati obbligati a cercare le loro migliori prestazioni. Poi sono venuti anche i record, però hanno cercato le loro migliori prestazioni perché non c'erano, tutto sommato, possibilità di confronto in meeting e in grandi manifestazioni, e non c'era la medaglia, diciamo così, a disposizione come obiettivo più importante dell'anno, quindi hanno cercato di correre al meglio in quello spazio di tempo anche breve che è stato dato ai grandi eventi, insomma. E quindi secondo me era quella la loro occasione, diciamo, di grande risultato dell'anno, per non anche spendere tutta la fatica che avevano fatto negli allenamenti e quindi di dare anche diciamo così una soddisfazione personale al loro impegno quotidiano. Però in quel 28.01.4 che ci porta del tempo, Paolo Rosi volontariamente in quell'occasione segnò il senso della corsa che avevamo io e Giorgio, perché non è che non ci importava del tempo, sì, no. Però io non avevo le caratteristiche dell'atleta che poteva mettersi in un meeting o in una gara organizzata e provare a tentare di correre velocemente. Io l'ho fatto una volta sola, l'ho fatto a Losanna, dove persi da Mamede e feci il mio personale sui 10.000, 27.37, e fu l'unica occasione in cui andai a tentare. In quell'occasione cercavo di correre in 27.30, che allora era il record italiano di Venanzio Rottis, e io cercai quella volta e mi sono reso conto che sarebbe stato e che era stato un impegno talmente faticoso, talmente impegnativo, che forse quelle energie che io dovevo mettere a disposizione per ottenere dei risultati forse era meglio mettere a disposizione in quegli eventi importanti dove si poteva salire sul podio, senza andare a cercare durante l'anno di spendere energie a destra e a manca per fare delle cose che poi alla fine potevano sembrare dico tra virgolette, minoritarie, no? E allora ci siamo detti, ma vincere la medaglia, qualsiasi essa sia, è più importante che fare un record del mondo? Sì. Siamo detti, sì. Non lo sappiamo, però proviamo a vincere le medaglie. Perché come si dice, le medaglie restano e i tempi insomma passano, poi vengono superati. Quindi quel 28.01.4, ma che ci importa del tempo, ha significato esattamente, significa ancora oggi, una mia filosofia, la mia di Giorgio, di come abbiamo deciso di fare l'atletica e quindi di mettere a disposizione le nostre energie in quelle occasioni che sono state importanti, col fatto anche che se qualcuno avesse tirato molto forte e mi avesse messo in difficoltà, probabilmente sarebbe stato più bravo di me, quindi complimenti, ma in gare a quei tempi, diciamo, tattiche, noi speravamo tanto, visto anche la mia capacità dei finali di gara, che non era solo mia, era anche di altri atleti, però insomma diminuiva il numero degli avversari con i quali giocarsi la vittoria. E quindi abbiamo puntato su questo. E quindi poi ha vinto la testa, esatto, più che il cuore, se vogliamo. Allora, abbiamo parlato di tempo, il tempo corre, dobbiamo chiudere. Ricordiamo quindi il tuo libro, Con la testa e con il cuore, scritto con il nostro Dario Ricci, edito da Sperlin e Kupfer. E grazie Alberto Cova. Grazie a voi, grazie Ivana, grazie Silvio. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e buon lavoro a voi. E grazie a Paolo Corleone in regia. Nel frattempo continuate a correre, noi ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata. Buona giornata. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.